24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani. Cioè, l'ha capita? Adesso farò un master in bersanese. Eccoci qui, cari italiani, cari passerotti, siamo alle 6:33 minuti e siamo pronti per una nuova puntata di 24 mattino. Dai che tra poco si va a votare, dai che è quasi tutto finito. Forza, forza! Saluto Miriam Lucchetti in redazione, come il nostro alpino Peter Vescapè in regia. E come dire, il consiglio è sempre quello là, del consiglione. But please relax. Come sempre, dai, possiamo aprire il nostro bar condicio con la nostra bella Nicole Minetti che ci offre il caffè. Il caffè volentieri a tutti quanti. Sempre, comunque. Se non voti ti fai del male. Se non voti ti fai del male. Mi vuoi dire per quale partito io dovrei votare? Se non voti ti fai del male. Ragazzi, c'è entrata come mantra così, no? di questa campagna elettorale, questo ritmo, no? Celentano! Facciamo il tifo per chi ci tradisce. Se non voti ti fai del male. Se non voti ti fai del male. Voglio salutare Vincino che starà cantando, oh, cantando da giorni questa canzone. Sì, assolutamente. Condivido. È subito caduta la linea. Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, buongiorno. Vincino, è così, appena nomini qualcosa cadono le linee. Ma dove vive Vincino? Adesso lo richiamiamo. In Italia, dove siamo molto intercettati e cadono molto le linee. Ah, l'intercettazione di Vincino. Se non voti ti fai del male. Se ne va un'altra pezza d'Italia, è la fine dei paesaggi. Sentite, quella del Molise era fantastica. Che ancora non basterà per distruggerlo del tutto. Il tanto ambito federalismo, altre eliche sulle palle farà girare. Ma allora, questo testo, De Manzoni, bisognerebbe fare un'esegesi del testo di Celentano. Cioè, c'è la parte sul Molise che è fantastica, che viene bombardato come un gruviera dalle pale eoliche, una roba così. Mettere un verso del genere in una canzone sembrava impossibile. Celentano ce l'ha fatta. Vincino, buongiorno. Sì, eccoci qua. Buongiorno. Eccoci. No, ci chiedevamo, c'è Massimo De Manzoni, sempre abbiamo fatto. Ah, sempre lui, sempre, ciao. Il vice direttore di Libero, che non è quello che non è parente. Cugino. Allora, Vincino, bella questa canzone di Celentano, È insopportabile, uguale a quelle. Celentano ha fatto canzoni belle e canzoni insopportabili. Questa qua è tipo canzone insopportabile, quella là, se non lavori non fa l'amore, queste cose qua. Ecco, per esempio, ecco, l'abbiamo recuperato il nostro alpino, ce l'ha recuperato il verso che mi ha inchiodato lì come un verso di Pascoli, sentite, sul Molise, Poi c'è anche il Molise che stanno uccidendo, bombardato come un gruviera. Ti fai del male. Da quei fantasmi eolici che muovono il vento. Vincino, c'è il Molise che sta morendo, bombardato come un gruviera da quei fantasmi di pale eoliche. Cioè, è straordinario. Stupendo proprio, ma è proprio il. Mi senti? Sì, come no? Ecco là, no, perché ogni tanto sento il vuoto di qua, ci siamo persi, non ci siamo più. Ci siamo. Va bene, come dire, a me mi piace il primo Celentano, un altro Celentano, questo qua ce lo prendiamo così, come tanto durerà tre giorni. Allora, la questione è questa, la domanda che vi voglio fare è questa. Vincino, sei andato per caso con... ti è arrivata la lettera di Berlusconi sull'email? No, ancora no, sono arrabbiatissimo. prossimo, ancora non mi è arrivata. No, perché la scena è questa: alcune persone si sono presentate, lettera di Berlusconi in mano, e si sono, immaginate la scena, c'è un epos dietro. A dove sono andati? Ai sindacati della CGIL, ai CAF della CGIL, a dire: oh, devo ritirare i soldi dell'IMU con la lettera di Berlusconi. Tu immaginati il funzionario della CGIL che si vede arrivare questa lettera di Berlusconi: datemi i soldi dell'IMU. Come avranno reagito? Come dire, ma solo alla CGIL però arrivano questi qua, è indicativo in un certo senso. E vanno alla CAF della CGIL. Là del, è stupendo, guarda, questa mossa di Berlusconi, diciamo, va tra il record di tutte le campagne elettorali, assolutamente. Qua, no, ma attenzione, perché De Manzoni, qua che ha fatto Berlusconi? L'hanno anche denunciato, Ingroia l'ha denunciato. Questo Ingroia denuncia tutti. Vabbè, non sì, è che... anche anche una cosa, Ingroia aveva una festa di uno ricco. Sì. E lui pensa subito: ora questo, ora io faccio la 41 bis, antimafia, cosa, qua sequestro tutto e via. No, lui per strada cammina, guarda, sequestro questo, sequestro questo, lui vuole sequestrare tutta l'Italia e poi affidarlo alla cooperativa ex tossici figli di Don Ciotti, diretta da un ex brigadista. Vabbè, Don Ciotti fa così, perché poi il 99% delle cose sequestrate marciscono, non è che una sola funziona, manco una. Questa è l'analisi di Vincino. Massimo De Manzoni, la condividi? Assolutamente, ma molto realistica. Spietata ma realistica. Sì, però Berlusconi lì un po' ci ha marciato, dai, cioè, ci sono gli anziani, quelli magari che hanno capito male, che si presentano a chiedere i soldi dell'IMU, ti pare una cosa normale? No, alla CGIL no, non si può chiedere i soldi dell'IMU alla CGIL, strano che vadano tutti la CGIL comunque. No, vanno ai CAF, vanno, sai, vanno ai patronati, vanno si appoggiano. Della CGIL fatalità, che la denuncia queste code, questi ingorghi, ma li avete visti voi gli ingorghi davanti alle poste, davanti ai CAF delle No, CGIL? Io file non ne ho viste, beh, sarà sai, qualcuno in una campagna elettorale fatta di patacche, potrebbe essere una patacca anche questa dei pensionati della CGIL. La patacca di quelli che vanno a chiedere rimborsi del libro. Quando uno fa una cosa falsa, se la fa bene, è credibile. E allora succede questo. Noi una volta, al mare, 30 anni fa, abbiamo fatto un assegno di falso della banca romana che era fallita nel 1903. Ma noi chi? Noi chi? Noi del male. Trent'anni fa. Ho fatto questo assegno falso, messo dentro il giornale. Ci chiama un prefetto di Lucca e ci dice: guardate, per favore ritiratelo, perché qua sono andati in negozi, si sono comprati le scarpe e qua noi ci crediamo agli assegni qua a Lucca. e ci sono quelli che gliel'hanno vendute, incredibilmente. Sì, stupendo. Ma come stupendo? Ho capito. Perché la realtà che tu hai in mano, modifichi, fai giochi, come dire, lui... Infatti è un grande autore di satire in questo. Io so già dove vuole arrivare Vincino, che oggi ha fatto delle vignette sul Foglio, ma ci arriviamo Vincino. Alla più grande di tutte, a quello che merita di essere deputato, perché ha dimostrato prendere per in giro 20 professori di economia che insegnano in America, è una cosa proprio solo lui ci poteva dire. Solo lui, sta parlando di Oscar Giannini. Oscar, grandissimo Oscar. No, ma ci arriviamo tra un attimo. Prima però volevo farvi sentire questo. Monti che se la prende con Berlusconi, compra i voti, sentite su questa storia dell'IMU. Altro che voto di scambio, promette, vediamo queste lettere sull'IMU. Quando io qualche giorno fa ho detto ma questo farà dei tentativi di comprare il voto degli italiani con i soldi dello Stato, non pensavo che avrebbe... Lei sapeva che avrebbe mandato questa lettera? non pensavo che avrebbe che si sarebbe incarnato così alla lettera la cosa che temevo avrebbe fatto e che sta facendo. Allora, qui De Manzoni, l'accusa è compra i voti degli italiani. Effettivamente però un pochino di polemica c'è su questa, cioè, perché uno ti arriva una cartella che sembra un facsimile dell'agenzia del PDL sopra, dai, simpatia. Non lo vedi, lo butta via, perché come dire, lo so, ma tutti non sono così pronti, lo so, De Manzoni è tutto a posto. Bisogna essere intanto in malafede e dire che gli italiani sono tutti cretini, non riescono a distinguere una vera cappella esattoriale da una foglietta di propaganda dove c'è la firma di Berlusconi, dove si parla di caro elettore e dove c'è sopra il marchio del partito, cioè adesso con tutta la buona volontà. Il marchio del PDL. Con tutta la buona volontà è difficile da credere. Il brutto simbolo della storia dei simboli d'Italia è quello là. Vabbè, mamma mia, vabbè, quindi uno dovrebbe riconoscerlo per la bruttezza del simbolo. Sono tutti brutti simboli, ma quello è il più brutto di tutti, proprio non l'hanno fatto apposta. Comunque vabbè, insomma, in campagna elettorale c'è questo, guarda, anche le querele, guarda che tanti anni fa arrivavano lettere di Mariano Rumor, no, firmato, lettere della Malfa firmata, caro amico, ecco, ma quando amico, ma chi ti ha mai conosciuto? Tutte bugie dicevano sempre campagna elettorale. Amico mio. Però De Manzoni, ho questa domanda. Allora, la questione è, oggi su tutti i giornali campeggia il fatto che Monti ha tirato in ballo anche la Merkel, dicendo la Merkel non vuole la sinistra, eccetera. Appunto, io volevo arrivare lì. Perché su Libero quella che avete definito la culona, quando la volete, adesso Merkel sputtana Monti, così titola Libero. Ho capito, tirate per la giaccona. Vabbè, una culona non può sputtanare nessuno, da quando in qua? Le culone possono sputtanare e stavolta l'hanno fatto. La verità è che Monti racconta balle come tutti gli altri, solo che le racconta in modo meno divertente. Ecco. Siamo una campagna elettorale di balle. Ieri te l'ho visto su Sky e poi subito dopo su non so quale, sulla 7, una cosa insomma, Monti c'era ieri. Ma è una cosa pazzesca. Ma infatti vogliono il confronto, ma perché il confronto? Basta mettere un programma dietro l'altro, esatto. Il confronto è già fatto. Cioè. No, ma Monti è di una noia, poi al secondo Monti uno basta, non è che non va più a votare per un secolo. No, adesso no. Ma Vincino, chi voterà? Vince, si può... il mio candidato ce l'ho, però ha detto che si dimette, per cui non lo so. Ah, cioè chi? Oscar? Giannino, il mio candidato, Oscar Giannino. Cioè, Giannino. Si dimette lui, ma cosa c'è? Ma vai a votare lui, vai a votare il movimento. Io votavo la persona, capito? Ah, la persona. Quindi sei di quelli che dice adesso non so più? Assolutamente, sono indeciso, starò per 3 giorni indeciso, ogni giorno mi chiamano i sondaggisti, ma lei fa deciso ancora? No, niente, è esposto, pam, pam, 100.000 voti in sopra e in sotto per la mia indecisione, e mi frego fino alla fine. Vicino tiene in scacco tutti i sondaggisti. Assolutamente. Cioè, c'è l'Italia che freme. Sky, Prick, tutte queste sighe, Sveg, Svig, cose, mi chiamano ogni giorno, dopo di voi suonerà il telefono, per io niente. Niente. Teniamo l'indecisione fino alla fine. Ieri il migliore è stato da noi Nicola Piepoli, che ha la domanda: ma cosa devono fare i leader per conquistare gli indecisi negli ultimi giorni? Piepoli ha risposto: pregare è lecito e consentito per tutti, possono pregare, questo possono migliore, fare. Va bene, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi parliamo della vicenda, facciamo sentire, ieri Oscar Giannino era da Daria Bignardi, le invasioni barbariche, vi facciamo sentire un audio e ne parliamo, Vincino ha fatto la sua vignetta su Giannino, va bene. 24 mattino. Bastano solo 10 regole, quelle datesi dal Padre Eterno, per stare meglio. Caro Alessandro, ogni popolo ha il governo che merita e quindi noi, paese dei Pulcinella, meritiamo ancora, dopo quasi un ventennio, di essere governati da un pagliaccio. Forza, la gran massa di marionette voterà tutta per lui ad occhi chiusi. Povera Italia, ha ragione Biso. Rotolassero tutti giù per le scale della cantina. Salvo solo Berlusconi, un gran signore. E ha da zappare, Gerisce. Che ha da zappare tutto quando non si. Ma Berlusconi quando c'è avuto un'altra cosa in faccia che ci facciamo una di 4 rasate? Che quando scumai nei sangue ma ci facciamo tante che di risate che stiamo ridendo ancora. Arrivederci. L'ha sempre detto Erbelli e poi Trilussa. Se vuoi sapere la storia italiana che vi è da qualche secolo discussa, ricorda, la politica è puttana e in maggior parte l'uomini sono ladri, col chiodo fisso alla filigrana, capaci di insozzare pure le madri. Sono socialisti se stanno a digiuno, quando se magna sono conservatori. Pensano a loro, non pensano a nessuno e la cassa se fa con i nostri errori. cosa aspettate a battere le mani, a mettere le bandiere sui balconi? Sono arrivati i re dei ciarlatani, ma il vero guitto è solo Berlusconi. L'italiano è così, li vota, li manda a quel paese, ma li vota, li rimanda su e li rivota. E quindi è l'italiano che si merita i forconi. In tempore diluviorum, omnia struntia navigant. Pure in latino, Vincino, Massimo De Manzoni, pure... Non me la ricordavo questa in latino. Ma c'è una che ha lasciato un messaggio, l'ho sentito 10 volte e non ho capito mezza parola, quella in dialetto. Massimo De Manzoni, mi aiuti, quella in dialetto. Anch'io ho capito Berlusconi, ho capito. Gli animi semplici portano Berlusconi. Sì, sì. Non lo so, non si capiva niente, ma un dialetto straordinario, non so di quale parte d'Italia. Allora, vogliamo sentirlo ieri, Oscar Giannino, a Daria Bignardi, quando Daria Bignardi gli ha chiesto: ma perché hai, cioè, questa cosa delle due lauree, anche perché l'hai fa? Sentite. Io ci ho giocato. C'era molto. In internet, ci ha giocato parecchio. Sì, cioè, però, lei ha proprio detto: io ho due lauree, sì, in diverse occasioni. Io ci ho giocato molte volte. Non era perché vero. L'ha fatto? Perché vengo da una famiglia, insomma, con pochi mezzi. Do i primi esami a giurisprudenza, diritto costituzionale, storia del diritto italiano, eccetera, eccetera. Poi vado a Roma per una modestissima borsa di studio. Io volevo andare via di casa, avevo 18 anni. E a quel punto inizio a studiare la notte, perché lavoravo durante il giorno. Inizio a scocciarmi di dover andare agli esami a Torino e inizio a studiare solo la notte. E ho iniziato a studiare prima giurisprudenza e poi negli anni, anche economia, per i fatti miei. Allora, Vincino, guarda, Libero, Libero fa le prime 4 pagine, adesso siamo alla character assassination, De Manzoni, come mai, cosa vi ha fatto adesso, dai, su. Non è una robetta, cioè si può scherzare, però non lo è. No, ma per carità, ma non è. Perché vedi, cioè, andando avanti con i giorni ne saltano fuori sempre di sì, nuove. Adesso sì, l'ultimo. Fuori che lui ha fatto consulenze anche per enti regionali, la regione Lombardia per esempio ha tenuto conferenze. E beh, ho capito, uno non può tenere una consulenza. Adesso non è che voglio difendere, non può tenere una consulenza. Ci mancherebbe altro. Il grave è se ottieni questi incarichi o fai queste conferenze perché... ti ritengono un cattedratico, un laureato. Posso dire, io lo conosco personalmente, forse parlo anche perché, cioè, che sia tra virgolette un cattedratico di testa, questo guarda, non lo metto in dubbio. È bravissimo, ha preso tutte queste cose qua. Non è che chiunque laureato prende consulenza, no, lo prende lui perché è bravo. Ma il problema non è quello, lui ne sa molto di più di tanti laureati. Il problema è: ma perché mi devi raccontare, scrivere nei curriculum e presentarti in modo diverso da questo? Che sì, sei. Questo infatti è il problema. Perché per il quale. Come Berlusconi, lui è più avanti. Lui arrivava vestito veramente da cadetto di West Point. Eccola la vignetta di Giannino. La vignetta. No, è vero. Oggi sul foglio c'è la vignetta di Vincino. Di ricordo quando venne vestito da cadetto di West Point. Cioè, e cosa c'è insieme invece del gatto che lui e io per 20 anni ho creduto che lui avesse. Si è fatto un anno di cadenza a West Point, è stupendo Giannino, guarda, è una cosa, è il più bravo di tutti, non c'è niente da dire. È il più bravo di tutti. Politico più bravo di lui non c'è, e sarà eletto secondo me, sarà eletto e dovrà restare perché, come dire, gli scriveremo in milioni di dicendo Giannino resta, abbiamo bisogno di te, non sopportiamo più tutti gli ipocriti, come dire, no, la sua trasmissione era bellissima da voi, no, non c'è dubbio, insomma, però c'è da dire, De Manzoni mette in risalto la gravità proprio De Manzoni un poco, dai, che vuol dire è De Manzoni? Non esageriamo, Massimo, reagisci qua, se, perché... Se non era bravo, non gli otteneva le consulenze. Ma no, che sia bravo, non c'è, io l'ho sentito, Massimo, ti assicuro, l'ho sentito una volta per un'ora discettare, io e lui, sulla Sacra Sindone, e ne sa molto più di qualsiasi cardinale, se si mettono insieme tutti i cardinali. Lui l'aveva indossata la Sacra Sindone. No, adesso sì. No, non è una cosa seria. Cioè, ma è verissimo, ma infatti non è questo che è in discussione. Ha una cultura, una scienza infusa. Lo so. Io posso essere bravissimo, ma se vi racconto di essere un perito elettrotecnico e vi vengo a aggiustarvi il televisore, voi siete contenti se vi aggiusto il televisore, ovviamente, però se, quando poi scoprite che non sono un perito elettrotecnico, me lo chiedete. Ma perché mi hai raccontato le cose? Se il televisore funziona, scusa. Vincino dice quello, è il risultato poi, l'efficienza delle cioè, cose. Lui viene da giù, è una cultura difficile, No, comunque io devo dire l'ho visto. C'è un figlio di famiglia di cosa, tutti ha avuto sempre come dire cuscini di raso e quell'altro, non si è dovuto conquistare. Ma ripeto, ma perché mi deve dire che è diventato anche magistrato e poi perché è rifiutato pazzo, di fare un magistrato? Un poco pazzo, ecco là, ha una sua forma di pazzia. È la genialità, è il lato geniale. Cioè, anche uno con 20, con 20 cattedratici americani, no, e continua a dire, cioè, come dire, l'ha fatta perché là sapeva che prima o poi l'avrebbero beccato, massacrato, distrutto, però era la voleva arrivare, lui voleva essere scoperto nel massimo di clamore e ci è riuscito. Vabbè, intanto io mi devo fermare qui, sentite 6 secondi, sentite Ingroia, 6 secondi. Evidentemente Bersani, siccome ha paura di Ingroia, con Ingroia né ci parla né si confronta. Bersani ha paura di Ingroia. Io ho paura, tutti hanno paura di Ingroia, perché questo ti sequestra tutto. Ho minimo indizio, lui pensa che tu passa e ti sequestra. Tom, va una festa, come va una festa di un ricco, Tom sequestrato tutto. E gli sequestrano tutto, sì, e lui se lo pensa. C'è un indizio, è uscito lui dal bagno che facevano che sniffavano. Sequestriamo tutto, via. Andiamo in mano alla cooperativa, passa, carmelitani scalzi, via. Vediamo, fermiamoci qui, grazie a Vincino, a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, ci ritroviamo per la rassegna stampa dopo le giornale radio, che è delle 7. Poi c'è anche il Molise che stanno uccidendo, bombardato come un gruviera, ti fai del male, da quei fantasmi eolici che muovono il vento. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, siamo qua alle 7:20 minuti, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo gli ospiti, oggi dovevamo avere Oscar Giannino, alle 8:15 ci sarà invece Silvia Enrico, che è l'avvocato che è diventato nuovo presidente del Movimento Fare per fermare il declino. Questa alle 8:15, dalle 8:30 alle 9 invece avremo con noi ai nostri microfoni il ministro del welfare, il ministro del lavoro, Elsa Fornero. Questi gli ospiti, li sentiremo più avanti ovviamente, e che dire, tuffiamoci subito nella lettura dei quotidiani in edicola. È giovedì 21 febbraio, i titoli intanto, il Sole 24 Ore apre con un'analisi dei programmi dedicati alle infrastrutture e il titolo è impietoso in prima pagina, al palo l'80% delle opere, nei piani dei partiti piccole promesse mancano priorità e risorse. Poi il caso Merkel-Monti è l'apertura praticamente di molti altri quotidiani. Il Corriere della Sera, un caso Merkel sul voto, Monti non vorrebbe il PD al governo. Ma Berlino nega commenti. La Stampa, gelo Monti Merkel sul PD. Repubblica, Monti, la Merkel non vuole il PD, ma Berlino lo smentisce. Il Messaggero, PD al governo, caso Monti Merkel. L'Unità, Merkel smentisce Monti sul PD. Il Secolo XIX, Monti scivola sulla Merkel. Libero mette sputtanato dalla Merkel, le balle di Monti. Il Fatto Quotidiano, Monti l'ultimo autogol, la Merkel non vuole il PD ma lei lo smentisce. Insomma, come vedete, praticamente tutti i quotidiani, anche il Giorno, la Merkel gela Monti, aprono su questo. Il Giornale, Grillo disprezza la casta ma fa 2 condoni tombali. Mentre il Manifesto apre su Profilo Greco, 80.000 persone scendono in piazza in Grecia, la situazione economica difficile nel paese. ellenico, mentre Avvenire Famiglia ora si svolti, il forum delle associazioni incalza la politica, più impegno per avere più Italia domani. Allora, voglio partire da un interessante articolo, un articolo che è il primo, viene annunciato da Repubblica, quegli articoli che finiscono con un uno continua, e quindi è un'inchiesta che Concita De Gregorio inizia sulla vicenda del Papa, di Papa Benedetto XVI. Io l'ho letto, è un articolo ovviamente che vi consiglio perché dà una lettura davvero innovativa, diversa, nuova sul perché Papa Benedetto XVI sia stato in qualche modo costretto a dimettersi. Infatti il titolo è I ricatti, le spine del papato. Ecco il titolo dell'inchiesta: Sesso e carriera, i ricatti in Vaticano dietro la rinuncia di Benedetto XVI. Di Concita De Gregorio, inizia in prima pagina di Repubblica. La zizzania, i pesci cattivi, le strutture del peccato. Giovedì 11 ottobre, Santa Maria Desolata, il giorno in cui la Chiesa fa memoria di Papa Giovanni XXIII, 50 anni dal principio del concilio. Benedetto XVI si affaccia al balcone ai ragazzi dell'Azione Cattolica, racconta. 50 anni fa ero come voi, in questa piazza, gli occhi rivolti verso l'alto, a guardare e ascoltare le parole piene di poesia e bontà del Papa. Eravamo allora felici, pieni di entusiasmo. Poi fa una breve pausa. Oggi la gioia è più sobria, umile. In 50 anni abbiamo imparato che la fragilità umana è presente anche nella Chiesa, che c'è la zizzania, aggiunge Concita De Gregorio, che ci sono i pesci cattivi. Ecco, questa è la premessa. Di che cosa? Racconta Concita De Gregorio che esisterebbe un dossier segretissimo affidato nelle mani del pontefice, il risultato di 3 cardinali consegnato al Papa il 17 dicembre del 2012, 2 tomi di quasi 300 pagine, 2 cartelle rigide rilegate in rosso senza intestazione con la scritta segreto pontificio. Lì sono custodite delle rivelazioni che, dice Repubblica, sono esplosive su lotte di potere, denaro e l'ipotesi di una lobby gay all'interno della Chiesa. Scrive Concita De Gregorio: nessuno ha capito in quel pomeriggio di ottobre, i ragazzi in piazza hanno applaudito, nessuno sapeva che 2 giorni prima Benedetto XVI aveva incontrato il cardinale Julian Herranz, 83 anni, spagnolo dell'Opus Dei, incaricato da lui di presiedere la commissione d'indagine su quello che i giornali chiamano VatiLeaks, cioè il corvo, la fuga di notizie, le carte rubate dall'appartamento del Papa. Ebbene, in decine e decine di verbali riletti, sottoscritti dagli intervistati con domande stesse per tutti, interviste libere, controlli incrociati, verifiche, avrebbero dato uno spaccato, e questo c'è scritto nel rapporto segretissimo, di un quadro da cui emergeva una rete di lobby che i 3 cardinali hanno diviso per provenienza di congregazione religiosa e origine geografica: i salesiani, i gesuiti, i liguri, i lombardi. Infine, quel giorno di ottobre, il passaggio più scabroso: una rete trasversale accomunata dall'orientamento sessuale, e per la prima volta la parola omosessualità è stata pronunciata, letta a voce alta, da un testo scritto nell'appartamento di Ratzinger. Per la prima volta è stata scandita, sebbene in latino, la parola ricatto, influenziam, sua santità, impropriam influenziam. Insomma, è il primo racconto, la prima inchiesta, la prima puntata di un'inchiesta che si conclude poi con va avanti, approfondisce, racconta poi con Concita De Gregorio e finisce con uno continua di quello che sarebbe appunto un dossier segreto che avrebbe spinto il Papa sconvolto alle dimissioni. Non fornicare, non rubare, ecco i 2 comandamenti violati nel dossier che sconvolge la Chiesa: lotte di potere e di denaro. È in prima pagina di Repubblica, ve lo segnalo. Mentre sulla vicenda Finmeccanica, le polemiche, vi segnalo oggi un'intervista al Secolo XIX, intervista in prima pagina, Pier Francesco Guarguaglini, cioè il predecessore di Orsi, che poi è stato arrestato e ora sostituito con Pansa. Luigi Leone lo intervista in prima pagina: la mia verità su Orsi, la Lega e Finmeccanica. Intanto si parla dell'intervento presunto di Alessandro Pansa su Mediobanca a favore della ex moglie del ministro Grilli. Ho letto, risponde Guarguaglini. E che dice? E cosa dovrei dire? Per esempio, se Pansa non parlò mai con lei, se le disse dobbiamo dare una mano alla signora Lowenstein. Mai, risponde Guarguaglini. Avrebbe potuto affidare consulenze senza riferirglielo. Ho letto, risponde sempre l'ex numero uno di Finmeccanica, ho letto che un internal audit ha escluso qualsiasi rapporto. Dare un incarico facendone perdere le tracce la definirei una cosa impossibile. In più sa com'è, anche se il gruppo è grande, le cose si risanno. E c'è dell'altro. Esisteva una direttiva, credo che esista tuttora, in base alla quale Finmeccanica andava sempre informata dell'affidamento di consulenze personali. Non era così solo per l'acquisto di servizi da società, perché questa appartiene all'ovvia autonomia operativa delle controllate. Dunque c'era una falla, chiede il secolo, non la chiamerei una falla, ma le ripeto, sarebbe difficile che un incarico di quel genere potesse passare inosservato. Comunque mi pare che stiamo parlando del nulla, visto che c'è un esito dell'internal audit. Quindi Guarguaglini sul tema aiuti, alla richiesta di aiutare da parte dell'attuale amministratore della Mediobanca Pansa, la ex moglie di Grilli ad appianare i debiti, dice non ne so nulla, e poi c'è una indagine interna che ha escluso questo. Poi c'è la questione rapporti con la Lega. Nell'intervista senta ingegnere Zampini dice che fu lei a raccontargli che la Lega gli sbarrò la strada. Zampini dice anche che sono sintetico, io sono trasparente, quindi informai tutti che avevo proposto tre persone, Zampini, Orsi e Pansa, e spiegai a tutti e tre di aver affermato che secondo me il più adatto era Zampini. Poi una volta che la decisione venne presa dissi a Zampini che nell'ultima riunione la Lega aveva preferito Orsi e che aveva convinto gli altri. Ecco, quindi su questo punto Guarguaglini sulla successione sua dice, questa è la sua versione, che la Lega spinse per convincere nel governo gli altri a nominare Orsi. Ma come vede tutta la vicenda giudiziaria nata dalla vendita degli elicotteri all'India e la presunta tangente alla Lega? Su questo, dice Guarguaglini, non voglio pronunciarmi per niente. Ho letto sui giornali tantissime cose, sarà la magistratura a fare chiarezza. Di sicuro il tanto clamore danneggia Augusta Westland e Finmeccanica. Poi l'intervista continua, ma insomma questi sono i due punti più interessanti. La trovate sul Secolo XIX, intervistato l'ex presidente di Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini. Parla di poco di inchieste e di più della vicenda sui presunti aiuti alla moglie del ministro dell'economia e sui rapporti con la politica. Ci fermiamo qualche minuto, poi ci tuffiamo nella campagna elettorale. Allora il nodo, il giallo che ha portato il premier Monti anche delle precisazioni in serata sul caso Merkel e poi anche il caso Giannino e poi la vicenda Beppe Grillo che continua a riempire le piazze. Questi temi che trovate sui giornali e gli ultimi scampoli di campagna elettorale. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora siamo qui alle 7:35 minuti, vogliamo capire cosa sta succedendo negli ultimi giorni di campagna elettorale. Domani è venerdì, poi ci sarà il silenzio elettorale, quindi sono le ultime 48 ore almeno sui giornali, per quel che mi riguarda, che posso raccontare. Ieri c'è stato, e il titolo di apertura di molti giornali, un, come dire, quello che è derubricato da tutti i quotidiani come uno scivolone del premier, del presidente del Consiglio Mario Monti, perché ha tirato in ballo Angela Merkel. Una giornata che racconta il Corriere della Sera, per esempio, a pagina 2, sotto il titolo Merkel non vuole il PD, ma Berlino risponde mai dato giudizi. È arrivata, e si può raccontare dalla coda, questa giornata la smentita di sera del portavoce di Angela Merkel, che dice non si è espressa su elezioni italiane, non lo ha fatto neanche in passato. Il caso era nato alcune ore prima, una domanda a Monti da parte del forum organizzato dall'agenzia di stampa di N. Kronos ha preso spunto da un'affermazione di Berlusconi che ritiene certa l'alleanza tra il polo di centro e quello di sinistra con la benedizione della Merkel, ed eccola qui la risposta di Monti. Monti dice evidentemente Berlusconi stravede per la Merkel e vede anche l'irrealistico. Io dubito infatti che la signora Merkel voglia che un partito di sinistra vada al governo di un grande paese europeo in anno di elezioni per la Germania. Semmai ha chiosato con perfidia, non senza perfidia, il professore con un occhio alla campagna antitedesca di Berlusconi, la Merkel auspicherebbe che sia il PDL, che è con lei nel PPE, a vincere. E su quest'ultimo passaggio molti si è attirato anche l'ira di Angelino Alfano. Ma insomma, un incidente, così lo definisce Fabio Martini sulla Stampa, dopo l'incidente il premier corre ai ripari in serata, è stata un malinteso, Mario Monti lo ha capito nel giro di pochi minuti, scrive la Stampa pagina 3, la sua personale stanchezza per la campagna elettorale, l'ansia dell'agenzia di sparare un titolo scoop rischiavano di giocargli un brutto scherzo. È questa la frase, l'affermazione falsa è che Monti abbia già deciso con la benedizione della Merkel che collaborerà col PD, c'è il condensato della falsità, perché questo non è affatto vero. La Merkel teme l'affermarsi di partiti di sinistra in un anno elettorale per lei. Ecco che quando l'agenzia di N. Kronos ha titolato Monti, la Merkel non vuole il PD al governo, una sintesi, scrive la Stampa, non perfettamente aderente alle parole pronunciate, ma vicina alla sostanza e sinceramente in grado di provocare un incidente diplomatico, un incendio polemico, è per questo che da parte dello staff del presidente è partito un giro di telefonate di chiarimento alle redazioni di alcuni giornali, cercando di riportare il baricentro dell'esternazione a quel credo che, ma insomma ovviamente Libero e il Giornale attaccano molto duramente, il Giornale insulti, sproloqui, bugie, Monti smentito dalla Merkel, c'è anche per la verità la reazione politica di Pierluigi Bersani, racconta Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere della Sera, resuscita paure inesistenti, Bersani non teme veti dall'estero, ancora inizia così l'articolo del Corriere, Pierluigi Bersani non sa quasi più che rispondere a Mario Monti, resuscita paure che non ci sono ormai da tempo, è in campagna elettorale, direbbe di più il segretario del PD, ma si è ripromesso di non superare mai la soglia della civiltà con l'attuale premier, di non prenderlo di petto, di non attaccarlo se non per difendersi. Certo però Pierluigi Bersani ha fatto una gran fatica, racconta Maria Teresa Meli, per presentare se stesso e il partito all'Europa. Quando è andato dal ministro delle finanze tedesco Schäuble sapeva già di avere il viatico della Merkel. Sappiamo quale sarà l'esito delle elezioni in Italia e non lo osteggeremo. E da allora è stato tutto uno scambio di mail e messaggi con l'unico obiettivo, far comprendere all'estero che il Partito Democratico non è la cinghia di trasmissione del fu Partito Comunista. Lavoro difficile e lungo che rischia di essere vanificato solo in Italia dalle parole pronunciate ieri da Mario Monti. Insomma, il giallo di questa vicenda, di questo qualcuno lo derubrica scivolone o improvvida dichiarazione di Mario Monti, che poi è stato smentito in qualche modo con l'intervento del portavoce di Angela Merkel, che dice Angela Merkel non si è mai espressa sulle elezioni italiane. Dall'altra parte tiene banco ancora la polemica in questa orrida campagna elettorale, possiamo dirlo, sulla lettera mandata a Silvio Berlusconi a molti elettori, rimborseremo l'IMU 2012. Allora c'è la denuncia di Ingroia, di Future Libertà, di anche del PD, parlano di truffa agli elettori, così scrive Libero, Salvatore Dama, pagina 6, vuole ridarci l'IMU e Ingroia, Future Libertà e PD denunciano il Cavaliere. Piovono esposti su Silvio per aver spedito le istruzioni sui rimborsi. Molti giornali titolano di code, di persone, caos, code alle poste, per esempio per l'Unità, dopo la lettera sull'IMU a Medeo la Mattina, pagina 6, compravendita di voti, truffa, fandonia, imbroglio, cinismo, offesa agli elettori, piove di tutto su quell'avviso urgente rimborso IBU 2012 che gli italiani hanno trovato nella cassetta delle lettere, portando molti di loro, sprovveduti, a presentarsi agli sportelli degli uffici postali per ritirare i soldi. C'è anche chi, segnalano CGL, CISL e UIL di Genova, si è rivolto ai centri di assistenza dei sindacati per chiedere i moduli. Tra l'altro io qui l'ho messo su Twitter, immaginate anche la scena del surreale con persone che sono andate, dicono alla CGL, ai CAF, ai centri, no, di patronati della CGL a Genova, è successo, sarebbe successo con la lettera di Berlusconi dicendo ridate, come faccio a recuperare l'IMU, e immaginatevi, proprio dalla CGL sono andati, immaginatevi anche la scena surreale di un funzionario della CGIL che deve spiegare che cosa c'è scritto nella lettera spedita da Silvio Berlusconi. Truffati da Berlusconi in coda al CAF per l'IMU, così titola per esempio il Fatto Quotidiano a pagina 8, anziani in fila per riscuotere e costretti i sindacati a scrivere che è solo propaganda. Nel gioco delle parti, scrive Chiara Paolino, ognuno è al posto giusto, il cavaliere nobile e generoso manda al popolo una lettera dove si chiede al cittadino di scegliere: i soldi dell'IMU li vuoi sul tuo conto corrente o direttamente alle poste? Gli anziani di Genova, attenti al denaro per definizione, si mettono bravi bravi in coda ai CAF per ottenere dettagli sul come, quando e quanto, e prontamente CGIL e CISL e UIL emettono un comunicato. La lettera pervenuta ai cittadini contiene un messaggio elettorale che induce il lettore alla convinzione che si possa realmente ottenere una qualche forma di rimborso, e così via. Ma non è tutto straordinario, cari italiani, non è tutto straordinario. Anche per il Corriere la lettera del PDL crea un caso: anziani in coda per l'IMU. Una foto delle code, effettivamente l'ho cercata, non c'è. Nessun giornale che propone una foto delle code o interviste in code, ma insomma, comunque, questo è il dato di fatto. Dall'altra parte, i giornali analizzano, molti lo fanno, la, come dire, marcia di avvicinamento. Utilizzo questa parola marcia perché è proprio un avvicinamento quello che sta facendo Beppe Grillo verso Roma, che arriverà credo domani per l'ultimo comizio. Ed è interessante per esempio ora un'analisi che trovate su alcuni giornali, il primo è il Sole 24 Ore, che vi voglio segnalare a pagina 15 con Emilia Patta, di chi sono, chi saranno i grillini che verranno portati in Parlamento, che verranno eletti in Parlamento. Movimento 5 Stelle, ecco l'onorevole della porta accanto, Emilia Patta, pagina 15 appunto del Sole. C'è l'avvocato del settore civilistico Alfonso Bonafede, che era il nostro ospite di ieri mattina peraltro, 36 anni. C'è la 26enne laureata in giurisprudenza Giulia Sarti in Emilia Romagna, che alla voce lavoro scrive Stagioni estive a Rimini come animatrice per bambini e adulti in spiaggia. C'è la 27enne laureata disoccupata Arianna Spessotto in Veneto. C'è la casalinga di Rovereto Milena Bertagnin, capolista in Trentino, che nel suo curriculum scrive anche: ho vissuto sia la difficoltà di arrivare a fine mese, sia la difficoltà di gestione di un'azienda, nonché l'essere mamma con la M maiuscola e lavorare a casa. C'è il medico Alberto Zolezzi, 38 anni, in Lombardia. C'è il quarantenne Vito Claudio Crimi, impiegato al Ministero della Giustizia in Lombardia. Insomma, un elenco che potrebbe continuare senza tuttavia aiutare a rispondere alla domanda: chi sono i probabili eletti grillini, da dove vengono? C'è un'analisi fatta cosiddetta al microscopio, si parla per il 25% di impiegati, il 17% di liberi professionisti, il 6% di operai, 6,2% di dipendenti pubblici, il 5,9% di imprenditori, il 5,6% di insegnanti. Insomma, ecco l'onorevole della porta accanto, un profilo. Tra l'altro anche il Corriere fa la stessa cosa, con tanto anche di foto, due pagine, pagina 8 e 9. Grillo prepara lo sbarco a Roma. Ci sono anche le polemiche, gli attacchi al PD per lo scouting promesso da Bersani in Parlamento. Ci sono verso il Parlamento tante foto di chi sono, appunto, anche qui i profili, brevi profili: chi è laureato in ingegneria, in economia, chi fa la casalinga, chi fa l'imprenditore, chi è disoccupato, chi è praticante avvocato, chi fa l'addetto export. Insomma, un profilo della inesperienza al potere, come la definisce il Corriere. Ecco i volti dei grillini che saranno onorevoli. L'attacco a Grillo invece è del Giornale a pagina 3. Stefano Zurlo, Grillo, a lui fa schifo la casta ma ha sfruttato due condoni. È una vicenda peraltro che riemerge dal passato. Il comico vuole moralizzare il paese, ma il Giornale racconta come taccia sul fatto che abbia sistemato la sua posizione edilizia e fiscale, e pensare che Celentano nella sua canzone censura quelli come lui. Allora, alle 7:48 minuti, Oscar Giannino ha deciso, dopo la fine dopo il direttivo del partito, fare, per fermare il declino, di fare un passo indietro. C'è da dire che ci sono articoli, tantissimi articoli oggi, articoli anche di colore, articoli Francesco Merlo in prima pagina di Repubblica, ci sono anche vignette come Giannelli in prima pagina del Corriere della Sera, che lo ritrae come protagonista il laureato, Oscar alla carriera, i due spettatori che dicono: una bufala, ma cosa, l'Oscar? No, la laurea. E insomma, questa vicenda della laurea ovviamente fa molta presa sui giornali. La resa di Giannino: lascia la guida di Fare ma resta candidato, così titola il Corriere della Sera pagina 6. L'articolo è di Monica Guerzoni, che racconta un po' anche il travaglio personale di tutti gli sbagli. Ho sbagliato, se eletto lascio il seggio. Ci sono anche altre vicende che vengono fuori. Quella su cui punta l'accento molto, per esempio, Libero, è questa storia dello Zecchino d'Oro. L'ultima farsa da Oscar è sullo Zecchino d'Oro. Nel 2009 dichiarò in un'intervista: sono stato dal mago Zurlì, cioè Cino Tortorella, ma non con il mio nome. Ieri sulla 7 ha ammesso: ho ricamato, erano solo selezioni. E dunque, visto che ieri credo anche alla Zanzara, anzi non credo, alla Zanzara, Cino Tortorella è intervenuto dicendo: non ha mai cantato allo Zecchino d'Oro. Insomma, anche Repubblica: false lauree, Giannino si dimette, ho detto gravi balle private, voci su altre bugie. E si racconta appunto soprattutto di questa dello Zecchino d'Oro. Anche il Fatto Quotidiano: il declino di Giannino, si dimette ma solo dal partito. Tra l'altro il Messaggero racconta in un articolo di Mario Aiello a pagina 5, e insomma, quando il VIP scivola sul vecchio pezzo di carta, non è il primo, ma dov'hai se la cartuscella non ce l'hai? Come in una canzone da film di Alberto Sordi, l'ansia di avere la laurea, di poterla esibire, la paura di non averla che spinge a mentire sull'oggetto, a inventarsi successoni accademici e lincei, master e PhD, coinvolge i politici praticamente dal primo all'ultimo. Daniela Santanchè, di cui si favoleggiano mancati titoli di studio, che inciampò a suo tempo spacciando per master un corso breve alla Bocconi, ha postato su Twitter un'immagine cartacea con tanto di timbri, bogli e scritture. Non è ancora spuntata invece fuori una carta che attesti ciò che Berlusconi ha spesso raccontato, cioè: ho studiato alla Sorbona, davvero? Mio papà però a un certo punto è venuto a prendermi a Parigi, mi ha riportato a Milano perché avevo trovato una fidanzata francese e non studiavo abbastanza. O magari, scrive Aiello, non ha studiato proprio. In Italia però la laurea l'ha presa. Non è mai arrivata invece a Umberto Bossi, il futuro senatore ha festeggiato due volte il conseguimento della tesi di laurea, ma niente, usciva al mattino fingendo di andare a lezione in facoltà di medicina, portava la borsa da futuro clinico, la prima moglie era convinta che stava diventando un professorone, invece laurea? Ma quale laurea? Oppure, vabbè, il Trota, la questione dell'Albania. In Calabria, racconta Mario Aiello, l'ex ministro Gelmini si recò a fare l'esame di Stato, forse sapendo che Catanzaro era considerato un promossificio anche per Padani. Doc, per non dire della laurea di Di Pietro, un tormentone, gliel'hanno regalata ai servizi americani, come si è favoleggiato. Poi la polemica su questa materia è finita. E ieri un ironico frequentatore di Twitter ha postato una finta notizia ANSA, su cui si legge: scandalo nell'IDV, la laurea di Di Pietro è autentica. Ecco, insomma, c'è anche questo. Leggete l'articolo spassoso di Mario Aiello a pagina 5 del Messaggero. Vi ricordo che noi avremo la nuova leader di Fare, Silvia Enrico, alle 8:15. Il lavoro, visto che avremo invece il ministro Elsa Fornero dalle 8:30 alle 9, ospite. E beh, questo dato da cui sicuramente partiremo: persi 186.000 posti negli ultimi due mesi. Il Sole 24 Ore, pagina 5. Il Centro Studi Confindustria dice che il 2013 è peggio del previsto, il calo del PIL oltre l'1,1% stimato. Dunque, scrive Luca Orlando, il 2013 andrà peggio del previsto. La revisione anticipata al ribasso, anticipata a Confindustria delle stime per l'anno in corso, che già vedevano il PIL italiano in discesa dell'1,1%, e questo dato negli ultimi due mesi: 186.000 occupati per una domanda interna debole, una scarsità e costo eccessivo del credito. Insomma, si sono persi altri fumati, altri 186.000 posti di lavoro. E qua bisogna andare rapidamente. C'è un articolo che vi voglio segnalare anche sul Monte Paschi, a pagina 13 di Repubblica. Già dal prossimo anno il Tesoro potrà essere azionista. È un articolo di Andrea Greco e Francesco Viviano. Una piccola correzione chiesta dalla Commissione europea per autorizzare il decreto sui monti bond da 4 miliardi destinati al Monte Paschi. Una correzione che però carica di effetti, perché già dall'anno prossimo potrà rendere il Tesoro azionista a Siena. A Bruxelles, infatti, i funzionari incaricati di allineare il prestito alle linee guida comunitarie hanno apportato la modifica che riguarda il pagamento degli interessi. Solo quelli maturati al 31 dicembre 2012 saranno regolabili con altri bond, gli altri in contanti. E siccome si suppone che Montepaschi guadagni, non guadagni, è improbabile, 400 milioni di euro quest'anno per pagare in contanti, il rischio che si profila è che dovranno accogliere il tesoro nel capitale della banca. È una rivelazione abbastanza sconvolgente, la trovate su Repubblica a pagina 13. Devo chiudere con la Gazzetta dello Sport, la leggo in maniera sobria. Milan da sogno, trionfa San Siro 2-0 al Barça. Vabbè, ma c'è il ritorno e quindi insomma niente, così ve lo segnalo. Milan da sogno, prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Siamo qui alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci, cari ascoltatori. Allora, vogliamo parlare di attualità politica e lo facciamo con Silvia Enrico, che è da ieri pomeriggio neo presidente di Fare per fermare il declino. Buongiorno, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie mille per l'ospitalità e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ovviamente è un momento un po' così, è diventata coordinatrice nazionale per gli eventi che sappiamo. Intanto ci dice un po' chi è lei, visto che il grande pubblico non la conosce, ma da ieri sì. Allora, prima di tutto sono una persona, ero una persona timida e riservata, e questo... Quindi potete capire bene, ed è questa la prima intervista radiofonica che rilascio in tutta la mia vita, quindi mi scuso in anticipo se non ho i tempi giusti. No, vabbè, non si preoccupi. Però allora, sono un avvocato, sono ligure, sono nata dal Benga nel ormai quasi lontano 1976, lavoro a Milano da una decina d'anni, ho aperto uno studio nel 2009, quindi con un tempismo perfetto, dato la crisi che già incombeva quell'epoca e che poi è andata peggiorando. Ho iniziato a lavorare nel movimento come coordinatrice regionale della Liguria, sin da subito praticamente, per il giorno di agosto, appena è stata costituita la direzione nazionale, quando da movimento l'8 dicembre scorso si è deciso in assemblea di diventare partito. Sì. E poi diciamo non è candidata in nessun luogo e non mi candiderò in nessun altro luogo. Questo è veramente un momento di spirito di servizio, sì, per il mio partito, per il movimento, per le idee. Certo. Senta, perché la scelta è ricaduta su di lei? Ovviamente il motivo lo sappiamo, Oscar Giannino ha fatto un passo indietro dopo la vicenda delle false lauree, insomma le polemiche che sono anche oggi abbondantemente sui giornali. Perché hanno scelto lei? Allora, credo che la scelta su di me sia alla fine arrivata anche all'unanimità, perché sono sempre riuscita a mantenere e ad avere un buon dialogo e un buon rapporto all'interno del mio partito e del mio movimento, in altri momenti, diciamo, non difficili ma di tensione che abbiamo trovato. Credo che abbiano riconosciuto in me non le competenze e le capacità di Oscar Giannino, senz'altro, né di Michele Boldrin, ma un'estrema lucidità, una forza, una determinazione e ovviamente un coraggio di cui Fare per fermare il declino ha bisogno in questo momento. Senta, oggi sui giornali l'accusa più grossa è questa: Oscar Giannino si dimette ma rimane candidato premier, insomma una sorta di dimissioni a metà, un passo indietro un po' fasullo. Lei come replica? Allora, chiunque, io lo capisco, perché in effetti sono assolutamente un volto e un nome nuovo. Sono una donna, 36 anni, quindi è facilissimo pensare di me che sia la longa mano su qualcuno, semplicemente la traghettatrice verso qualcuno di questo partito. Non è così e ci tengo a specificarlo, non tanto per questioni di velleità o di superbia, di cui assolutamente non mi importa, ma per il bene di quello che io rappresento. Oscar Giannino si è dimesso da presidente ed è stata una decisione umanamente molto dolorosa e sofferta da parte di tutti noi, ma politicamente dovuta per quello che andiamo dicendo e che abbiamo avuto la capacità di trasformare in fatti. Abbiamo presentato delle liste dove lui è presente come candidato capolista in molte e non si può, e questa è la legge, è candidato premier, e rimane, non perché non si può modificare, significherebbe ritirarci dalla campagna elettorale e noi non vogliamo ritirarci, noi vogliamo superare la soglia del 4% e mandare i nostri candidati in Parlamento. Sono persone serie e per bene e hanno accettato la loro candidatura in un momento storico in cui nessuno, se si ricorda a fine dicembre, sì, inizio gennaio, ci accreditava, ma neanche lontanamente. Ma questo sicuramente. Però a questo ci arriviamo tra un attimo. Le chiedo intanto, ma se venisse eletto, Oscar Giannino ha già detto, io se dovessi venire eletto rimetto la decisione al partito. Secondo lei è opportuno, se venisse eletto, che rimanga in Parlamento Giannino? Ok, allora, come rappresentante del mio partito devo risponderle che questa decisione di opportunità la devono dare i nostri elettori, le persone che tra i nostri aderenti tesserati e tra gli elettori italiani ci daranno fiducia. Cioè farete che cosa? La consultazione di base elettorale che ci consenta di entrare in Parlamento sia significativo anche da questo punto di vista. A livello personale mai e poi mai uscirà una frase dalla mia bocca che possa il cellulare sul più bello. Ci ha abbandonato il cellulare. Sono quelle cose che proprio sul più bello il cellulare ci lascia. Mai e poi mai uscirà dalla mia bocca una frase che questo è il bello della diretta, cari ascoltatori. Stiamo parlando con Silvia Enrico, che è la neo presidente di Fare per fermare il declino dopo le dimissioni di Oscar Giannino. Vediamo se la stiamo cercando di recuperare come cellulare, ma le linee telefoniche non ci assistono da questo punto di vista. Silvia Enrico, da ieri appunto è presidente al posto di Oscar Giannino, che si è dimesso dopo le vicende sulla doppia laurea eccetera. L'abbiamo recuperata, allora la rimettiamo in linea. Dicevamo, Silvia Enrico, che lei stava dicendo mai e poi mai uscirà dalla mia bocca una parola che, e qua si è interrotta la comunicazione, una parola suspense. Che parola mai uscirà dalla sua bocca? No, una parola che possa essere interpretata come un disconoscimento in qualunque modo di quanto Oscar Giannino ha fatto per fare e ha fatto per tutte le persone immoderate in Italia in questi decenni. Questo nessuno, guardi, come lei ben sa. Quindi? Scusi, l'ho detto prima che non ho i tempi giusti, ma spero di arrivarci. Dica, quindi? Ad averli. E quindi il mio augurio personale è che Oscar ritorni sul suo pensiero e, se eletto, rimanga in Parlamento. Perfetto. Senta, questa questione, io le voglio leggere un messaggio che è arrivato da un mio amico pochi minuti fa, glielo assicuro, non è arrivato poco, ma me ne sono arrivati tantissimi così. Mi aveva convinto, lei come sa, insomma, abbiamo un rapporto personale, Oscar Giannino lo conosco personalmente, essendo stato qui a Radio 24, mi aveva convinto, l'ho ascoltato per tanto tempo, gli credevo, ma di botto zero. Guardi che me ne sono arrivati tanti così. Lei ieri ha detto, dopo la vicenda, no, io credo che questa decisione invece ci rafforzerà. È davvero sicura, sì, di questo? Sì, io sono sicura proprio per il tenore del messaggio. Non è Oscar Giannino che deve convincere o no a votarci e a votare per il nostro programma. È quello che abbiamo scritto, è quello a cui persone meno note di Oscar Giannino, ma ugualmente competenti e dediti, hanno approfondito e studiato in questi mesi, che mai è cambiato ed è stato riconosciuto da tutte le forze, gli esponenti delle forze politiche oggi presenti in Italia, come un buon programma. Ma questo non c'è dubbio, ma non crede che su cui abbiamo la è quello che è credibile. Secondo lei quindi non pagherete, non ci sarà una perdita anche di consensi legati alla personalità di Secondo me ne acquisiremo. Ne acquisirete. Sì. Le chiedo, Luigi Zingales, secondo lei ha fatto bene a far emergere questa vicenda? Nelle modalità con cui l'ha fatto, secondo me no. Essendo parte di un movimento, di un'associazione culturale che è vicino al partito ed avendo avuto un ruolo fondamentale perché tutto il progetto prendesse avvio quest'estate, avrebbe dovuto lasciare alla direzione nazionale, che ovviamente sarebbe stata convocata ben prima di ieri, la decisione su come comunicare all'esterno quello che era stava succedendo e quindi consentirci di reagire subito, evitandoci queste le 48 ore di stilicidio che abbiamo avuto. Certo. Non contesto il fatto che Luigi Zingale, coerente con le sue idee, abbia giustamente denunciato quanto è venuto a sapere. Però sulle modalità... Sulle modalità, sì. L'ultima domanda, se vuole rispondere in maniera secca, ma crede anche che ci sia qualcosa di complotto dietro le rivelazioni di Zingales oppure no? No, questo non lo credo. Assolutamente. Intanto io la ringrazio, ovviamente in bocca al lupo per lei, grazie per il movimento, per la campagna elettorale in questi ultimi giorni. Grazie per essere stata con noi, Silvia Enrico, voglio ricordare presidente di Fare per fermare il declino da ieri, insomma, al posto di Oscar Giannino, che ha fatto un passo indietro. 24 mattino. Eccoci qua, allora sono le 8:32 minuti, abbiamo con noi fino alla chiusura del programma, fino alle 8:55, di questo la ringrazio, il ministro del lavoro e le politiche sociali con delega alle pari opportunità, Elsa Fornero. Ministro, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, come immagino, le domande che abbiamo sono tantissime, ne avrei per tenerla qui due ore, ma insomma cerchiamo di concentrarci intanto sulla questione principale, il lavoro. Oggi ha già letto i dati del Sole 24 Ore, di Centro Studi Confindustria, parlano di 186.000 posti di lavoro persi negli ultimi due mesi. Le chiedo un commento a caldo su questa brutta notizia. Gli ultimi due mesi sono tanti i posti di lavoro persi. Guardi, intanto le confesso che ho guardato la rassegna stampa ma non ho letto ancora le notizie e quindi vuol dire che non ho letto l'analisi. Allora su questi dati io so anche per esperienza che bisogna avere molta cautela nell'interpretazione. Si vuole che io ammetta subito, ed è ovvio che lo devo fare con onestà intellettuale, il mondo del lavoro sta soffrendo e sta soffrendo pesantemente. La disoccupazione sta aumentando e sta aumentando per effetto di una recessione che induce anche persone che prima erano fuori dalla forza di lavoro, quindi non partecipavano al mercato del lavoro con una ricerca, induce queste persone a cercare lavoro perché le famiglie sono in una condizione di disagio e quindi mentre prima poteva bastare un reddito, quando questo reddito non è più un reddito pieno ma per esempio è un sussidio da cassa integrazione o da mobilità, e allora è chiaro che nella famiglia qualcuno che magari prima era fuori perché svolgeva compiti prevalentemente familiari adesso si mette sul mercato per cercare un lavoro. Lavoro e questo ingrossa ovviamente la fila di quelli che sono in cerca di lavoro. A proposito della riforma che porta il suo nome, sa che la critica che fanno molti imprenditori anche Confindustria è che irrigidisce troppo i meccanismi di entrata nel mondo del lavoro e quindi paradossalmente si verifica quella difficoltà di favorire la occupazione giovanile. Ne ho parlato molto a lungo con molte imprese, con molti imprenditori e devo dire che credo che questa critica nasca da una sorta di, diciamo così, ambiguità che c'è anche nell'interpretazione della riforma. Io lo voglio dire a chiare lettere, la riforma non è stata fatta per superare la recessione. La riforma, e questo lo si vede bene nelle analisi degli organismi internazionali come l'OCSE, come il Fondo Monetario, la riforma è stata fatta come risposta a problemi strutturali, cioè vuol dire di lungo periodo del mercato del lavoro. Io le dico subito con altrettanta franchezza che per affrontare il tema della scarsità di lavoro in recessione l'unica misura che forse avrebbe avuto un impatto immediato è quello di una riduzione forte del costo del lavoro. E perché non è stato fatto questo? Perché non c'erano le condizioni, perché noi sembriamo adesso dimenticare che questo paese è un paese che ha un debito molto elevato e che non è nelle condizioni di muovere la leva della spesa pubblica, in questo caso riduzione di entrata che è equivalente, per risollevare l'economia. Cioè Le dico che se noi adesso, guardi, tanto per essere molto concreta, noi abbiamo potuto mettere a disposizione dell'accordo sulla produttività 1.200.000.000. Sì. Sono pochi, sono pochissimi. Le dico che la scorsa settimana, parlando a Dublino col collega francese, ministro del lavoro, Michel Sapin, lui mi diceva che loro hanno messo 20 miliardi, è vero, la Francia è un'economia più grande, però 20 miliardi strutturalmente per la competitività delle imprese tedesche sono una misura diversa. Però la Francia non ha le nostre difficoltà finanziarie, e questo che in qualche misura va ricordato. Ha inciso sulla impossibilità di diminuire il costo del lavoro. Senta, le chiedo allora, questo però. No, mi faccio solo dire questo. Allora, se io avessi potuto avere disponibilità di risorse per l'immediato, per traghettare questa economia in questa difficile fase, e se lei mi chiedesse, ma avrebbe grosso modo fatto la stessa riforma, allora, delle regole del mercato del lavoro, io le direi di sì, perché quelle regole non sono cambiate come risposta a una recessione, sia pure prolungata, sono le regole per migliorare il funzionamento del mercato. Cioè, lei dice la struttura della riforma è giusta, però arriva in un momento in cui, se fosse aiutata da una situazione economica migliore, ecco che... Sì. Si arriverebbe a una somma positiva degli elementi per... Io credo di sì, e se lei mi dà ancora un secondo, io le dico, guardi, c'è un'obiezione che io, una controobiezione alle loro, che io faccio spesso, l'ho fatta anche parlando col presidente Squinzi, con cui abbiamo chiarito molte, diciamo, delle pseudopolemiche che ci sono state attribuite. Il punto è questo, che se noi consideriamo tutta la flessibilità di cui comunque il mercato del lavoro italiano ha goduto in questi 10-12 anni passati, non possiamo dire che ci ha portato lontano. E prendiamo un solo dato, che però è quello forse più significativo, che è la produttività del lavoro nel nostro paese. Bene, tutta questa flessibilità ha contribuito a ridurre la nostra produttività, non l'ha aumentata. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona in questi rapporti di lavoro mordi e fuggi, in questi rapporti di lavoro che in qualche modo impoveriscono la relazione di lavoro tra datore e lavoratore. E riducono quindi quello che è il dato più significativo sia per l'uno che per l'altro, cioè la produttività. La produttività. Le chiedo però, Ministro, la riforma, lo stesso Premier Monti ha detto è da migliorare o da implementare. Lei sa che ci sono forze politiche che addirittura la vorrebbero proprio smantellare, uno su tutti, Vendola. Lei come vive questo passaggio? Insomma, tra 5 giorni ci sono le elezioni, ci sarà un nuovo governo, un nuovo Parlamento. Diciamo che come cittadina lo vivo abbastanza male, perché devo dire che il quadro che emerge da questa competizione elettorale è abbastanza desolante, e quindi se io esprimo il mio sentimento di cittadina non credo di avere molto di cui sentirmi soddisfatta. Se poi penso al lavoro fatto da ministro, un lavoro che io lo voglio dire con molta tranquillità e molta pacatezza, che io ho svolto con spirito di servizio dal primo giorno e fino all'ultimo, perché io sto ancora lavorando perché le cose funzionino un po' meglio, e per esempio sull'apprendistato magari dopo diremo qualcosa, ebbene io devo dire che mi auguro che tutto questo chiasso di campagna elettorale che fa premio sull'intelligenza, sul buon senso, anche quando l'intelligenza magari è poca, la gente può avere buon senso, e sul, diciamo così, un po' di affezione per il paese, perché le cose che vengono dette sono francamente disarmanti. Ma lei sulla sua riforma ha paura che venga smantellata anche? Io non credo, anche perché ci sono, intanto guardi, io ho vissuto la complessità dell'approvazione della riforma e non è tanto facile, perché il percorso, questa riforma è nata, come lei sa, come disegno di legge, ed è nata da un confronto con le parti sociali. Tutti quelli che criticano la riforma dimenticano che che quella riforma rappresenta comunque un equilibrio, perché qui non avevamo parti sociali che volevano la stessa cosa. Avevamo parti sociali che volevano cose opposte. Infatti vi accusano poi, quando c'era stato lo scontro, il confronto, di aver tirato dritto. Cioè, dice, avete consultato le parti sociali ma poi siete andati per la vostra strada. Ma proprio perché questo governo ha cercato di pensare non all'uno o all'altro, ma ha cercato di pensare al paese. Questo governo ha avuto l'ambizione, poi diciamo tutti possono giudicare se c'è riuscito di più o di meno, e potranno giudicarlo nel tempo, soprattutto perché c'è anche una qualcosa che bisogna sfatare, che fa parte della superficialità con cui in questo paese si analizzano i problemi. E cioè, uno pensa che fatta una riforma, il giorno dopo ci siano gli effetti. Ma Tra quanto ci saranno, secondo lei, rimanesse così la riforma? Beh, io comincio a dire, io dico che alcuni effetti, e sono effetti positivi, ci sono. Cioè, questa riforma, e così dovrebbe essere per tutte le riforme, cioè cambiare i comportamenti. Dov'è che miriamo? Io le ho parlato prima di riforma strutturale, non è che è una riforma spicciola che serve per i prossimi mesi, ma è una riforma che deve rimodellare un po' i comportamenti. E le faccio qualcosa di nuovo, di concreto. Io sono profondamente convinta che uno dei mali, anzi forse il più profondo, di questi paesi è la contrapposizione. E noi abbiamo vissuto anche in anni passati una contrapposizione forte tra lavoro e, diciamo, impresa. Noi dobbiamo ricostituire un rapporto, e la strada che ci indica l'economia in Europa, che ha più successo sul fronte dell'occupazione, ma anche altre economie ce lo indicano, e cioè la Germania. Allora, cosa vuol dire costruire delle buone relazioni di lavoro? Vuol dire smetterla con la pratica del lavoro, lo prendo, lo lascio il giorno dopo perché non mi serve più, e tutto questo mordi e fuggi che ha caratterizzato il nostro lavoro. Vuol dire prendere qualcuno, investire, creare un legame un po' più di lungo periodo, far sentire anche il lavoratore partecipe dell'impresa. Noi avevamo anche un decreto sulla partecipazione, che purtroppo non è arrivato in porto perché il governo si è dimesso e il Parlamento è stato sciolto. Ma anche questo, cioè, noi dobbiamo costruire. E dice di costruire più relazioni. Senta, ministro, io adesso ci sono le informazioni sul traffico di un minuto, ma vorrei introdurre la questione degli esodati. So che lei già il termine esodati la infastidisce. Non lo ama, la infastidisce. Ma guardi che però chi si sente. Parliamo di salvaguardati. Salvaguardati, va bene, va. Salvaguardati, esodati o esodati. È veramente un brutto termine. È un brutto termine, però ormai è entrato nel gergo. Allora, siamo con il ministro del lavoro, Elsa Fornero. Non le piace, non ama il termine esodati, però molti si sentono così. Lei non sente la responsabilità di... intanto su questo balletto delle cifre dei salvaguardati, esodati... Guardi, andiamo su questo, perché su questo lei sa che io sono stata... molto attaccata. Molto attaccata, sì. Ma anche questo fa parte di un atteggiamento... diciamo di superficialità, e visto che vogliamo parlarci in maniera schietta, posso dire che è una superficialità da cui la stampa non è certo immune. Parliamo dei numeri. Allora, i numeri sono chiari quando noi parliamo di accordi possibilmente collettivi e possibilmente ufficiali. Quelli noi li sapevamo, e quelli erano grosso modo i 65.000 che erano entrati, sì. Ma poi si scopre dopo che ci sono, lei sa, si dice sempre che le imprese, la struttura, l'ossatura dell'economia italiana è fatta di piccole imprese, e ci sono molte piccole imprese dove i lavoratori sono stati incentivati a uscire nell'attesa della pensione, cioè tenga conto. Ma non si poteva avere una previsione che sarebbe potuto succedere, quindi prendere anche, calcolare un'ipotesi di quanti sarebbero potuti essere queste persone in più? Beh, io qui ho già detto molte volte, quando noi abbiamo scritto la norma, non c'era un motivo per noi di prendere un numero più piccolo rispetto a un numero più grande. La stima che mi è stata inizialmente fornita era 50.000, attraverso discussioni siamo arrivati poi a individuare 65, proprio per avere margini, dopodiché ci si è accorto di questo, che il fenomeno era molto più diffuso. Ma adesso io ribalto il ragionamento, guardi che se tutti si accordassero per uscire prima, contando sul fatto che le norme non vengono cambiate, questo di fatto bloccherebbe una riforma, anche se fosse necessaria. Sì. Però, ministro, molti italiani dicono: io un mese prima, due mesi prima di andare in pensione, mi sono visto e trovate le regole cambiate. No, un mese, due mesi non è vero. Sei mesi. Perché no, io ho sempre detto, scusi, questo è, noi abbiamo detto, nessuno era toccato dalla riforma nel corso del 2012. Quindi l'anno passato. Facciamo la un anno? Fatta un anno da allora? Noi, no, aspetta, un anno insomma, sono uno o due mesi. Poi abbiamo detto la salvaguardia per quelli del 2013 e 2014 è stata, io credo, perfezionata. Poi abbiamo tutti gli accordi collettivi che vanno fino a circa il 2020, quegli accordi sono coperti, sì, tra il primo e il secondo decreto sui 55.000. Rimangono quelli individuali e rimangono quelli a livello regionale, sui quali ancora adesso lei dice: ma io non ho, le regioni non mi hanno dato i numeri. E come faccio? Quindi lei non può averli. Però lei, di fronte a una persona, la trovasse di fronte in questo momento, che dice: io, guardi ministro, non ho, mi ritrovo adesso senza lavoro e devo aspettare 3 anni, 4 anni, 2 anni, non sono salvaguardato, come faccio a campare? Cioè, lei che rappresenta lo Stato in questo momento, cosa dice a questa persona? Io ne ho incontrate anche molte, con molte ho ricevuto anche ovviamente molte lettere di insulti anche pesanti. Però ho ricevuto anche molte lettere di persone che hanno capito. Allora, quella pacatezza che sarebbe stata necessaria per affrontare un problema è mancata, perché quando io qui ho imparato una lezione molto forte, nel frastuono generale le voci di buonsenso non si sentono più. Allora, abbiamo sempre detto bisogna selezionare i casi, sì, e bisogna discutere, perché ci sono persone che magari hanno 54, 55, 56 anni. Però i casi, una persona mica può venire a bussarle al ministero personalmente? No, però qui allora le regioni sono istituzioni, possono funzionare, se ci sono accordi regionali, ci sono le direzioni territoriali del lavoro, questo censimento si può fare. E sa che cosa le dico? È che questo è anche un riflesso del fatto che per troppo tempo questo paese ha pensato di risolvere i suoi problemi anche di ristrutturazione delle imprese, ristrutturazione industriale, mandando in pensione la gente a età relativamente giovane. Adesso ci scontiamo quella cosa. Vabbè, lì noi siamo il paese che ancora spende di più in pensioni d'Europa, e poi ci parliamo del problema dei giovani, quindi chiudiamo parte, vogliamo mandare in pensione le persone, e poi non abbiamo i soldi. Per esempio, fosse per lei le baby pensioni, che sono state un errore storico, e lo sappiamo, non dobbiamo rivangarlo, insomma, affondiamo nella storia della Prima Repubblica, le cancellerebbe fosse per lei? Le trova ingiuste? Beh, oggi, allora, anche lì bisogna andare a vedere caso per caso, ma questo si può anche fare, perché se ci sono delle persone, in gran parte sono donne, che hanno redditi molto bassi e l'unica fonte di reddito è quella che hanno conseguito come baby pensionati, è difficile dire che gliela togli. Mentre invece se ci sono persone che hanno una baby pensione certamente non pagata attraverso i loro contributi, beh, in quel caso lì allora bisogna intervenire, perché si tratta di trasferimenti che magari sono a carico di persone che hanno redditi molto più bassi di quelli che percepiscono. Senta, ci vuole anche l'equità. No, ma è chiaro. Però qui bisogna considerare una cosa. Lei mi diceva: cosa gli direbbe? Io dico che ci sono diversi strumenti, non si può soltanto sempre pensare alla pensione, Bisogna anche pensare al lavoro degli anziani. Lei mi parlava prima della riforma del mercato del lavoro. Io le dico che quella riforma ha l'ambizione, poi bisognerà vedere se questo paese vuole accettare queste sfide, ma ha l'ambizione di realizzare un mercato del lavoro inclusivo. Cosa vuol dire? Un mercato del lavoro che non si limita a proteggere i maschi adulti, ma che bada ai giovani, che bada alle donne, che bada anche ai lavoratori anziani. Senta. Dobbiamo smetterla di pensare che una persona che ha 55 anni è persa per il mercato. Questo sì. Abbiamo due minuti, ministro Fornero. Prova a fare due domande se riesce a rispondere in maniera il più sintetico possibile. Grillo ha detto: vada la figlia della Fornero a lavorare a 500 euro in un call center. Lei... Trovo che questa è una vigliaccata. Ho detto molte volte che i personalismi, io guardi, ho sofferto molto nella mia vita da ministro di attacchi che sono delle vere e proprie vigliaccate. Questa è una cosa, un'accusa che io rivolgo a Grillo, è una vigliaccata, e gli ho anche detto che fino a prova contraria io non ho mai avuto nella mia vita una Ferrari Testarossa, mentre invece mi pare di ricordare, perché una volta l'ho visto io stesso, che lui l'abbia avuta. Bisogna avere anche coerenza, e comunque è molto facile risolvere o far finta di risolvere i problemi con gli editti, con le accuse, con le superficialità. È molto più difficile lavorare giorno per giorno. L'ultima domanda che le faccio è questa: visto che lei è stata anche molto molto attaccata e si è pentita di questo anno e mezzo, cioè, c'è qualcosa che non rifarebbe più questa esperienza in politica, poi in un dicastero così delicato? Certamente è stato un anno molto difficile, per quanto possa sembrare anche questo un po' altisonante, io le dico che l'ho fatto con spirito di servizio per il mio paese e perché me l'ha chiesto una persona nei confronti della quale io ho grandissima stima, che è Mario Monti. Mario Monti. Che voterà? Quindi... Che voterà? Lei vota Monti? Sì, sì. Vota Monti. Si fermi qui perché il tempo è finito. Io la ringrazio, vedete, per essere stata con noi. C'erano tantissime domande, come puoi immaginare, ma insomma, quelle che abbiamo fatto siamo riusciti a fare. La ringrazio il ministro Elsa Fornero per essere stata con noi. Buona giornata, ovviamente. Ricordate che tutto sul sito potete ascoltare. Potete già ascoltare, per esempio, l'intervista alla neopresidente di Fare, Silvia Enrico. È già sul sito radio24.it. E ci ritroviamo domattina alle 6.30. 24 mattino.